Ehi! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24. E tu non ci puoi far niente, niente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci all'appuntamento con la rassegna stampa di Radio 24. Sono Marina Macelloni del Sole 24 Ore. Anche oggi vi farò compagnia con la lettura dei quotidiani in edicola. Oggi sui principali quotidiani domina la vicenda Alitalia. Quasi tutti i grandi giornali aprono con la partenza della nuova compagnia, l'accordo fatto con Air France. Gli altri temi sono il debito pubblico italiano, i rendimenti dei bot crollati ai minimi storici, ancora la guerra a Gaza e la presentazione della nuova Ferrari per la Formula 1. Vediamo adesso i titoli principali dei quotidiani. Cominciamo dal Sole 24 Ore, che è una delle eccezioni tra i grandi quotidiani e non apre con Alitalia. Il titolo di apertura del Sole è: pensioni, sarà alzata l'età, da Brunetta e Ronchi le correzioni nella comunitaria 2009, l'esecutivo risponde alle obiezioni UE, riforma graduale e flessibile per le donne del pubblico impiego. Quindi il titolo di apertura è su una notizia che ha solo il Sole 24 Ore. Di spalla il rendimento dei bot, forte domanda di bot, i rendimenti al minimo storico, i titoli annuali in asta all'1,84% lordo. Il taglio centrale del giornale è invece dedicato all'Alitalia. Air France, socio da 322 milioni, Colaninno, Malpensa, hub europeo, Malinate varidimensionato, definita l'intesa per l'ingresso nella nuova Alitalia che decolla oggi, lock-up di 4 anni. Il Corriere della Sera apre invece con Alitalia. Alitalia dice sì a Air France. La Moratti puntava su Lufthansa, tensione con il governo, da oggi i primi voli. Colaninno, priorità a Malpensa, ridimensionare Linate. Di spalla invece Gaza, il Corriere della Sera sceglie la guerra in Medio Oriente. Gaza sotto assedio, rallenta l'offensiva israeliana. A centropagina la fotografia della Ferrari, ecco la Ferrari nuova generazione, e i rendimenti dei bot al minimo storico, tassi all'1,84%, Banca Italia, debito pubblico record. Il taglio basso della prima pagina del Corriere è dedicato alla notizia di cronaca, la beffa del boss, fuga nelle fogne, Caserta, Setola scappa da una botola, è il più spietato dei casalesi. Anche la Repubblica sceglie Alitalia, in volo Alitalia Air France, la compagnia francese sborsa 322 milioni di euro per il 25% di CAI, oggi il debutto, rischio caos per la protesta degli autonomi, Colaninno, Fiumicino e Malpensa Hub, varidimensionato Linate. Gaza è richiamata con la notizia degli scontri a Milano su Gaza, scontri tra agenti e centri sociali, l'esercito di Israele avanza, e c'è poi un reportage che vedremo dopo di Guido Rampoldi, Selim, il signore dei tunnel. Al centropagina, debito pubblico da record, crollano i rendimenti dei bot, e Repubblica torna sulla storia che ha evidenziato già nei giorni scorsi, no dei giudici all'archivio di polizia, il progetto di una memoria centralizzata preoccupa l'Associazione Nazionale Magistrati e il Consiglio Superiore della Magistratura, intervista a Spataro, ciò che è segreto deve rimanere nella disponibilità esclusiva del PM. La stampa, il primo giorno di Air Alitalia, oggi l'esordio della nuova Alitalia, i soci vincolati a non vendere agli stranieri per 4 anni, intesa in extremis con i sindacati. Ai francesi il 25%, la di Sabelli, Lufthansa, voleva un'annessione mascherata. Anche qui la fotografia della nuova Ferrari, F60, rivoluzione rossa. E poi è richiamata in prima pagina una storia che ha solamente la stampa, bus Atei nella città di Bagnasco, spot e polemiche a Genova, Dio non c'è, la Vincenzi che ha infastidito prenda un altro pullman. Vi leggo il richiamo perché altrimenti non si capisce di cosa stiamo parlando: pubblicità dell'ateismo a Genova, città del cardinale Bagnasco, presidente CEI, è l'iniziativa dell'UAR, l'Unione Atei e Agnostici Razionalisti, che con 7.000 euro farà scrivere su 2 bus in circolazione a febbraio: la cattiva notizia è che Dio non esiste, quella buona è che non ne hai bisogno. Il sindaco Marta Vincenzi difende comprende la scelta della società che gestisce il trasporto pubblico e ha accettato la pubblicità. Chi non è d'accordo, dice, può prendere il bus successivo. Il Messaggero: Alitalia, SIAD, Air France, via libera di CAI all'Alleanza, oggi primi voli della nuova compagnia, Colaninno, Fiumicino, hub di riferimento, Malpensa può crescere. C'è un retroscena, il Messaggero approfondisce la storia di Alitalia con il retroscena, guida e strategie ai soci italiani, ecco l'accordo. A centropagina Obama, chiudo Guantanamo in 7 giorni, il ripensamento del presidente eletto degli Stati Uniti a pochi giorni dall'inizio. Insediamento ufficiale. E l'altro richiamo nel taglio centrale del Messaggero è dedicato all'università, via i nuovi concorsi e i rettori blindano i vecchi bandi. Anche qui i bot, il successo delle aste, bot, rendimenti ai minimi storici, cala il debito degli enti locali. Il Giornale torna sulla sua inchiesta su Di Pietro, il giallo dei rimborsi, c'è un documento sbianchettato, ma la foto centrale del Giornale è dedicata all'Italia. All'Italia decolla con Air France, sancita l'intesa. Anche Libero si occupa di Di Pietro, il titolo di apertura è Il tormentone dei soldi, Di Pietro vuota il sacco, il leader dell'Italia dei Valori risponde alle 6 domande che Libero gli ha posto per conto del Giornale. La questione dovrebbe essere chiusa. In caso contrario, noi siamo qui. L'Avvenire invece apre su Gaza, Israele non si ferma, sulla tregua è stallo. L'Unità invece dedica la copertina al debito pubblico, c'è una fotografia di 5 neonati, il titolo è Devono già 28.000 euro, miracolo Tremonti, debito pubblico record, 1.670,6 miliardi di euro, bot, crollano i tassi. È richiamata anche Gaza con un'intervista che poi vedremo a Amos Oz per la pace, una doppia Palestina. Il Riformista, più tasse per tutti, Berlusconi si è dimenticato la rivoluzione fiscale, e un'intervista a D'Alema su Gaza. D'Alema Israele è una spedizione punitiva. Gaza anche sul Manifesto, lavoro in corso. La Padania invece apre su Malpensa, qualcuno ha barato, i giochi erano fatti da tempo, tutti hanno lavorato alle spalle dello scalo padano. E con questo diamo la linea al GR. È la stampa, bellezza, la stampa. Eccoci di nuovo con la lettura dei quotidiani di questa mattina. Dopo aver visto i titoli principali cerchiamo di approfondire qualche argomento, naturalmente all'Italia. Partiamo dal Sole 24 Ore che, oltre a tutta la cronaca della giornata, dedica all'argomento un servizio, un articolo di Gianni Dragoni, richiamato in prima pagina e segue poi a pagina 2, i prezzi del rilancio. Piccola e costosa per i contribuenti e consumatori, scrive Dragoni. La nuova Alitalia privata decolla più leggera di quel ministero dei cieli costato più di 5 miliardi di perdite in 20 anni e infiniti disservizi. Ma le perdite non si sono esaurite, perché la privatizzazione, con la scelta di affidare la polpa della società senza debiti ed esuberi alla cordata italiana lanciata da Silvio Berlusconi, comporta un costo stimabile da 3 a 4 miliardi di euro. Dragoni poi a pagina 2 fa l'elenco dei punti critici che restano anche dopo l'alleanza, sono 10, vanno dai costi alle rotte, agli esuberi, le valutazioni, il partner estero, trappola per i risparmiatori. Alla vicenda il Sole dedica anche l'editoriale di prima pagina di Salvatore Carruba, il titolo è Una questione settentrionale c'è anche nel governo, Carruba allarga quindi il campo alla cosiddetta questione settentrionale, che colore deve avere il governo nazionale per comprendere le ragioni del Nord, scrive l'editoriale lista del Sole. La questione settentrionale, manifestatasi in occasione delle elezioni del 2006, aveva evidenziato la distanza dal centro-sinistra di gran parte dell'Italia del Nord. 2 anni dopo, i risultati hanno ribadito l'identità politica di quell'area, ma hanno anche avviato quel rimescolamento di carte all'interno del centrodestra che sta accompagnando e sottolineando un dato di fatto: la perdurante difficoltà della politica a svuotare quel magazzino di risentimenti nel quale Canale Nord si è trasformato. Negli ultimi mesi, anzi, il cahier de doléances si è fatto più fitto e specifico, con due questioni a dominare: la sorte del polo aeroportuale di Milano e le prospettive dell'Expo, per la quale sostanzialmente si è già sprecato quasi un anno dei 6,5 disponibili. Sullo stesso argomento e sullo stesso tono anche gli approfondimenti del Corriere e di Repubblica. Il retroscena del Corriere della Sera, affidato a Francesco Verderami, è intitolato La guerra di Letizia, gelo con Berlusconi. La guerra di Letizia era iniziata giovedì scorso, quando il sindaco di Milano si era presentata scura in volto nell'abitazione romana del Premier, scagliandosi contro l'intesa Alitalia Air France e il ridimensionamento di Malpensa. Ma Berlusconi non avrebbe mai immaginato che la Moratti si sarebbe espressa allo stesso modo in TV, cosa che invece è avvenuta, come ricordate, domenica. In realtà, al fondo delle tensioni con Berlusconi, scrive Verderami alla fine del suo articolo, resta il contenzioso su Expo 2015, quando la Moratti non si è sentita sostenuta dal Premier nel braccio di ferro con Giulio Tremonti, che ha accentrato sull'economia i meccanismi di controllo dei fondi pubblici. Ecco, secondo il Corriere della Sera, qual è il punto centrale dello scontro tra Milano e Roma, scontro su cui torna anche Ettore Livini in un editoriale di prima pagina su Repubblica. Quel contentino per il Nord è il titolo. La guerra degli hub si è chiusa ieri con la vittoria per KO di Fiumicino, è un contentino virtuale, un impegno al rilancio condizionato da molti paletti per Malpensa. Rocco Sabelli, amministratore delegato della Nuova Alitalia, non poteva essere più chiaro: il nostro network è basato a Roma, ha ribadito. Lo dicono i numeri: la nuova compagnia targata CAI opera da oggi 13 rotte intercontinentali dalla capitale e solo 3 da Milano. Lo scalo lombardo resta strategico anche per Air France, ha addolcito la pillola Roberto Colaninno, ma appunto di pillola addolcita si tratta. Per restare sui temi economici, parliamo dei bot, rimaniamo sul Sole 24 Ore. L'asta di ieri si è chiusa con una forte richiesta di titoli di Stato e quindi con rendimenti in drastico calo, forte domanda di bot, i rendimenti al minimo storico, la domanda elevata da parte di banche e investitori ha spinto all'asta di ieri i rendimenti dei bot a 12 mesi al minimo storico, 1,84% lordo, scrive Sole 24 Ore, quelli a 3 mesi sono caduti all'1,66%. La richiesta di titoli a breve scadenza non solo in Italia è stata alimentata dalle minacce di declassamento di Standard & Poor's sulle emissioni di Spagna, Grecia e Irlanda. Intanto, secondo Banca Italia, il debito pubblico italiano è tornato a salire a fine ottobre al massimo storico di 1.670 miliardi. A questo è dedicata anche un'analisi di Isabella Bufacchi, che parte dalla prima pagina e prosegue poi a pagina 7. Il titolo è Bond bancari, i veri concorrenti. Il successo di altri due collocamenti ieri in Germania e Portogallo dimostra che i veri concorrenti delle emissioni di titoli di Stato in Eurolandia sono ormai le obbligazioni emesse dalle banche, che presentano rendimenti ben superiori ai titoli statali e nello stesso tempo offrono la sicurezza della garanzia pubblica. Sempre sui temi economici vi accenno all'apertura del dorso di finanza del Sole 24 Ore, che è invece tutto dedicato all'auto. Ieri la notizia del giorno ha riguardato Fiat, con le dimissioni per ragioni personali del responsabile marketing numero uno di Alfa Romeo, Luca De Meo. Il titolo di finanza del Sole 24 Ore è Fiat, De Meo si dimette. Sul titolo l'effetto CNH, calo del 3,4% per l'uscita del manager e i timori in USA. Il pezzo di apertura è dedicato quindi alla Fiat, ma poi c'è anche un approfondimento su l'auto americana. Wagoner, piano GM da rivedere, è in corso il salone dell'auto a Detroit. L'allarme di Wagoner, l'amministratore delegato di General Motors: il mercato è ancora peggiorato, non sappiamo se servono ulteriori fondi, dovremo attendere marzo per avere un quadro definitivo. Ecco, passiamo invece a parlare di Medio Oriente, a parlare di Gaza, della guerra in Israele, e lo facciamo prendendo l'unità L'Unità, che ha un'intervista allo scrittore israeliano Amos Oz. L'intervista è richiamata in prima pagina: Amos Oz per la pace, una doppia Palestina, e intanto a Gaza prosegue l'offensiva israeliana, 900 vittime tra i palestinesi, ma Hamas grida vittoria. L'intervista è poi a pagina 26 dell'Unità, il titolo è Due Palestine, pace con l'ANP e con Hamas, solo una tregua. Che cosa dice lo scrittore israeliano? Occorre guardare in faccia la realtà, e la realtà, per quanto possa non piacerci, dice che ormai esistono due Palestine, una a Gaza, controllata da una banda estremista, Hamas, l'altra in Cisgiordania, dove è insediata una dirigenza palestinese, quella del presidente Abu Mazen, sinceramente impegnata a ricercare un compromesso onorevole con Israele. Da questa constatazione dobbiamo partire per definire una strategia che sulla realtà delle due Palestine permetta di raggiungere risultati diversificati che non possono essere raggiunti con il solo uso della forza. A parlare è uno dei più grandi e impegnati scrittori israeliani contemporanei, Amos Oz. Questo è l'attacco dell'intervista di Umberto De Giovannangeli sull'Unità. Resto della convenzione, sottolinea Oz, che Israele non poteva non reagire alle continue provocazioni di Hamas. Ma, con la stessa convinzione, oggi dico che l'invasione di terra è sbagliata, per tanti motivi, il primo dei quali perché fa il gioco di Hamas. Che fare allora? Gli chiede l'intervistatore. Occorre accelerare il negoziato in modo tale da mostrare concretamente a tutto il popolo palestinese di Cisgiordania e di Gaza che esiste un'alternativa vera alla violenza, per vedere riconosciuti i propri diritti. Solo così è possibile rafforzare la leadership moderata di Abu Mazen. E sempre su questo tema c'è un bel reportage su Repubblica di Guido Rampoldi, il titolo è Selim, il signore nei tunnel. Il reportage a pagina 11, Selim, il re beduino dei tunnel, pronti a salvare i fratelli palestinesi, nel covo dei trafficanti di armi e uomini nelle gallerie di Rafah. La guerra ha interrotto affari da $10,000 al giorno, ma potremmo scavare più a fondo per sfuggire alle bombe. Per restare in tema di politica internazionale, il Corriere della Sera invece dedica l'editoriale di prima pagina alla presidenza americana, è di Massimo Gaggi, Obama e i disillusi, frenata sulle promesse elettorali. Gaggi si sofferma sui primi discorsi di Obama, la differenza con i discorsi di oggi a poche ore dall'insediamento ufficiale. Prima la rinuncia a eliminare subito gli sgravi fiscali per i ricchi e a introdurre una tassa straordinaria sulle compagnie petrolifere, come promesso in campagna elettorale. Poi l'avvertimento che dalla sanità alle pensioni molti impegni e programmi di spesa andranno ridimensionati alla luce della gravissima crisi economica. Queste sono le prime righe dell'editoriale di Massimo Gaggi sul Corriere. Le correzioni di rotta di Obama si stanno moltiplicando. Alcune sono suggerite dalla recessione, altre vanno ben oltre, come nel caso del prolungamento della presenza militare USA in Iraq o in quello della rinuncia a chiudere subito il carcere di Guantanamo. Un rinvio obbligato, ma che ha fatto sensazione visti gli impegni elettorali, tanto che il presidente eletto è stato costretto ieri a correggere il tiro. Torniamo invece su Repubblica per parlare un pochino di politica italiana. Il titolo oggi è dedicato a Rifondazione, strappo a Rifondazione, Vendola se ne va, licenziato Sansonetti. È giunta al culmine quindi questa vicenda che è durata qualche giorno sulla crisi dentro Rifondazione Comunista. A pagina 15, un'intervista di Carmelo Lopapa a Nichi Vendola. Siamo finiti in una gabbia di veleni, cambiamo casa per rifondare la sinistra. Vendola, risentimenti e menzogne della vicenda Liberazione mi hanno fatto soffrire da comunista. È giunto il momento di mettere ordine, di riscrivere lo spartito della sinistra del futuro. Le miserie umane e culturali alle quali abbiamo assistito ci hanno indotto a questo passo. quello della rifondazione della sinistra. Questa non era più casa nostra. Nicchi Vendola, governatore della Puglia, perché non sarebbe più casa vostra? Perché abbandonate il partito? Una storia si è ormai compiuta, finita dentro una prigione di risentimenti. È stata scritta una pagina brutta, siamo finiti tutti in una spirale ritorsiva. Quella non è più casa nostra perché è poco accogliente, è un luogo che ha chiuso i conti con la parola rifondazione, eccetera. Eccetera. Sempre per la politica italiana c'è molto D'Alema oggi sui giornali. D'Alema nel PD mi hanno demonizzato, a pagina 14 di Repubblica. Europee, riparte la trattativa col PDL su, preferenze e quorum al 4%. E invece un'intervista sempre su Repubblica a Follini, ex UDC, sulla le proposte di Casini, lanciate ieri da Casini. Casini scelga tra noi e la destra, il centro ha senso solo se si allea. Follini, siamo in difficoltà, serve uno sforzo per riavvicinarci ai moderati. Senatore Follini, gli chiede Goffredo De Marchis, Casini definisce partiti finti PD e PDL, tira solo l'acqua al suo mulino, le differenze ci sono, PD e PDL hanno molti difetti, risponde, ma non sono gli stessi. Di là c'è una monarchia, di qua una repubblica caotica e disordinata, ma più libera. Di là un'inclinazione al plebiscito, di qua una maggiore attenzione verso i corpi intermedi. A questo punto ci dobbiamo fermare un momento per le notizie sul traffico. A dopo. È la stampa dell'Etta, la stampa. Eccoci ancora qui per l'ultima parte della rassegna stampa. Abbiamo visto finora i temi principali che ci sono sui quotidiani questa mattina, dall'Alitalia ai rendimenti dei bot, alla crisi in Medio Oriente, alla politica italiana. Adesso vediamo qualcosa di più leggero e parliamo di De André. Le celebrazioni per il decennale della morte del cantautore, ne parla il Foglio. Il titolo è Povero De André. L'articolo è in prima pagina. Se si è un grande cantautore bisogna evitare di morire, diffidare delle commemorazioni. A essere un grande cantautore bisogna assolutamente evitare di morire, scrive il Foglio, per non finire dentro una commemorazione. La commemorazione accorata e sincera trasformerà il grande cantautore in qualcos'altro, un tizio disfunzionale a metà fra Gandhi, Garibaldi, Foscolo e Branco. È successo ancora una volta nel decennale della morte a Fabrizio De André, vittima di molte celebrazioni in cui non si è mostrato De André mentre parlava, suonava, cantava, ma si è raccontato di quando si è incontrato De André e allora lui ha detto e io ho detto e insomma lui era un grande, ma in fondo anch'io ci capivamo al volo. Vittima domenica sera delle celebrazioni massima, quella di Che tempo che fa. In realtà poi invece le celebrazioni sono state seguite da moltissime persone e moltissimi fan del cantautore. Molto spazio sui giornali è dedicato ai Golden Globe assegnati ieri ai film, molto spazio perché era in corsa il film italiano Gomorra, che invece non ha vinto il premio per il film straniero è stato assegnato al film di animazione israeliano Walzer con Bashir. Ne parla su Repubblica Gabriele Romagnoli, ha un taglio particolare perché parla del fumetto al cinema. Il titolo è Da Maus a Bashir, il fumetto racconta gli orrori del mondo. Il film sul massacro di Sabra e Shatila trionfa ai Golden Globe. Il pezzo poi è a pagina 29. Il mondo a fumetti, c'è anche un bel disegno, una bella illustrazione, quattro figure umane nude e armate emergono gialle accecanti dal mare nero e avanzano nella notte verso il lungomare di Beirut, traviata bellezza di palme spiumate e grattacieli deserti. Li accompagna una musica hard rock, non sono irreali, sono iperreali, come lo era la ragazzina bidimensionale inscritta a forza nel velo nero in una Teheran sontuosamente claustrofobica, come lo erano i topi nel lager o le montagne di rifiuti che rappresenteranno un giorno l'unico paesaggio visibile sul pianeta Terra. Adesso che Walzer con Bashir ha vinto il Golden Globe per il miglior film straniero e si avvicina all'Oscar, niente patriottismi per Gomorra, scritto tra parentesi, si rispetti l'imbarazzo di chi dovrà scegliere, adesso è chiaro che la storia si può raccontare in un modo nuovo e più efficace, disegnandola. Oggi Oggi Bashir e Wall-E, ieri Persepolis, prima ancora Mouse. Chiamarli fumetti o cartoni è diventato riduttivo. Se ne sono accorti perfino a Hollywood. 2 anni fa commisero l'errore di nominare Persepolis nella categoria film animati e il peccato capitale di preferirgli Ratatouille, variazione sul tema del topo fortunato. Quest'anno stanno per spedire Bashir dove gli compete, tra i film. Punto e basta. Invece il Corriere della Sera, sullo stesso tema, insiste sulla delusione per Gomorra. Il titolo infatti è Delusione Gomorra, il riassunto dei premi: 4 premi a The Millionaire di Danny Boyle, doppietta di Kate Winslet, miglior attrice protagonista e non protagonista, che si è fatta anche notare perché è impacciatissima nel discorso, trofeo come interprete drammatico a Mickey Rourke. E poi un pezzo sulle reazioni in Italia: shock se non andrà agli Oscar, si parla di Gomorra, ma per gli USA è un film difficile. Parlano Muccino, Verdone, Procacci, Aurelio De Laurentiis e Sesti, insomma un po' di interviste a un po' di registi. Per avvicinarci alla chiusura vorrei tornare su Il Sole 24 Ore, che riapre invece la questione di Sky e dell'IVA al 20%. In prima pagina sul Sole è richiamato un articolo di Marco Mele, il titolo è Sky riapre la partita sull'IVA al 20%, è solo un sopruso. Sky non ci sta, il raddoppio dell'IVA dal 10 al 20% deciso dal governo a carico della TV a pagamento non vuole proprio mandarlo giù. L'amministratore delegato Tom Mockridge ha inviato ieri una lettera a tutti i parlamentari per ricordare le ragioni della pay TV satellitare in vista della conversione in legge del decreto 185 del 20 novembre scorso. Mockridge ricorda innanzitutto come la misura colpisca 4,7 milioni di famiglie abbonate alla TV a pagamento per un totale di circa 14 milioni di individui. Le famiglie abbonate alla pay TV sono più numerose della media perché molte sono quelle con figli, attratte dalla nutrita programmazione per bambini di Sky. La lettera rivendica la libera scelta degli abbonati per un'informazione libera e indipendente. Sarebbe ora che Sky TG24 fosse inclusa nelle rilevazioni sul pluralismo politico della GCOM e sarebbe ora che i componenti dell'authority ne tenessero conto. Il primo argomento di Sky, scrive Marco Mele sulla prima pagina del Sole 24 Ore, una tassa sui consumi è contraddittoria all'interno di un provvedimento che vorrebbe sostenere la domanda dei cittadini in un momento di crisi economica. Il pezzo poi segue a pagina 14. Chiudiamo tornando sulla vicenda delle pensioni con cui abbiamo aperto questa rassegna stampa. Vi leggo il richiamo del Sole 24 Ore, il servizio poi è a pagina 5, si parla della riforma delle pensioni, in particolare dell'aumento dell'età per le donne nel pubblico impiego, una riforma graduale e flessibile per allineare il requisito per la pensione di vecchiaia di uomini e donne del pubblico impiego. È l'impegno formale preso dal governo in una comunicazione inviata ieri a Bruxelles dal ministro per le politiche comunitarie Andrea Ronchi. La nota prende atto della sentenza dell'Alta Corte di Giustizia del Lussemburgo che il 13 novembre scorso aveva individuato nella differenza d'età minima 60 anni per le donne, 65 per gli uomini, una violazione dell'articolo 141 del trattato. Le nuove norme per allineare i trattamenti saranno presentate nelle prossime settimane in Consiglio dei Ministri da Renato Brunetta, dopo una verifica su costi e compatibilità. Dopo il via libera seguirà una nuova informativa alla Commissione UE. L'ipotesi più accreditata è che le modifiche verranno inserite nel disegno di legge comunitario 2009. L'iter quindi è lungo, ma si parte. Con questo ci salutiamo, ci sentiamo domani. Adesso la linea al giornale radio.